tantissima con l'attacco PL e credo che sia fuori anche catalogo, non lo fanno più, non so per quale motivo, peccato perché non aveva cuffia di gomma quella, e quella c'aveva sotto un materiale resistente che ricopre la, diciamo, la calamita ultrapiazza, però non hai bisogno di gomma né niente, tanto più che la macchina ormai è, cioè, carrozzeria non c'è di più, quindi danno da me non ne fa. E poi mi è rimasta una base Sirio, quella nuovissima da 12 cm, quella che ha l'alluminio sotto, Gianni già la conosce, e la tengo in accoppiata con un'antenna da un metro simil VU, simil bipanda, sembra un'antenna bipanda, invece è per la 27K. Vai Carlo. Ho capito, insomma un po' abbiamo tutti provato diverse basi magnetiche, anche io ne ho avuto diverse, piccole, grandi, e quella con l'alluminio sotto me la ricordo anch'io, forse l'avevo anche avuta o me l'avevano data, poi l'avevo rivenduta, insomma roba che non fanno più sicuramente. Adesso penso che la maggior parte delle basi magnetiche siano tutte col gommino, capito? È per quello che può darsi pure che si trovino di diversi diametri quei gommini, e fare una ricerca sicuramente migliore quando i dati, le misure giuste della mia base magnetica. Ripeto, già mi procuro la scatolina e là c'è tutto. Addirittura mi ricordo che nella scatola c'era scritto anche la velocità con la quale potevi andare con la macchina in base all'antenna che montavi, capito? Tipo massimo 130 km orari, massimo 150, e dipendeva anche dal diametro della base magnetica. Sì, sì, ma Carlo, ma a te ti sei staccata l'andalghero la magnetica? Sì, esatto, già, però stavo camminando, oltre 130, ho sentito, diciamo, il rumorino sulla capota e praticamente l'antenna che fa troppa forza, e quindi invece con l'altra non mi era mai successo, anche camminando a 150, 160 l'ho provata e non si muoveva nemmeno, eppure l'altra è più alta, però hai ragione tu, l'altra flette e quindi fa meno resistenza al vento, capito? Invece queste qua non flettono e quindi creano resistenza, alla fine ti sganciano la base, però è rimasta attaccata, capito? Poi alla fine è rimasta sulla capota, è scivolata un pochettino all'indietro, ma c'era il filo che la teneva, per cui ho trovato un parcheggio e l'ho riposizionata e poi ho camminato più lentamente, capito? Meno male non ti ha fatto danno alla macchina, a me mi ha graffiato la capota e in più mi ha fatto due ammaccature piccolissime, ma mi dispiace perché la macchina è nuova. No, no, per fortuna no, la mia comunque già lunedì, per non sbagliare, già va dal carrozziere. Mettono poco, mi lo scaldano, lo buttano fuori, ma secondo me non tiene già mai di paraurti, cosa dici tu? Sì, sì, perché l'ha già verniciato, quindi la macchina gliela porto la mattina e la sera me la riconsegna, capito? Non la verniciatura, poi devono aspettare 12 ore, capito? Quindi lui il lavoro l'ha già fatto sul nuovo, quindi il mio sicuramente lo toglie e lui già lo recupera, lo aggiusterà e magari lo ripiazza qualcun altro, però a me lo mette nuovo, capito? Ma tanto me lo controllo io, non è che mi fido, capito? E sicuramente lui già lo sa, anche perché da me si è rotto sotto anche un supporto che lo tocco con la mano e tutto, manca una parte, capito? Quindi deve cambiare sia il supporto angolare, capito? E tutto il resto. È facile da ispezionare, vedere se è stato riparato o meno, entri la mano sotto e lo senti. Sì, ma è facile. No, se te lo devono cambiare già te lo cambiano, non è che... Però loro già se lo recuperano, perché quello lì lo scaldano, hanno una specie di asciugacapelli, mi così, una pistola d'aria calda. Lo scaldano e da dietro lo premono e se ne ritorna al posto suo. Sì, esatto, esatto, sì, lo fanno a caldo e poi fanno qualche stuccatura, se c'è il foro lo chiudono con altra plastica, capito? Scaldandola e dopodiché lo stucchi, lo raddrizzi bene, non si vede, lo vernici, non si vede niente. Sì, l'ho visto su internet come fanno, come li aggiustano, capito? Ma spaccati però, no, rovinati. terminati veramente spaccati, li hanno uniti con delle staffe prima, tipo graffette rimangono, poi le hanno messo la resina, una volta che c'era la resina gli hanno ristaccato le graffette, l'hanno stuccato e verniciato, non ci vedeva niente. Sì, sì, ho visto tempo fa anche io. Poco fa ho scoperto una cosa, che praticamente il microfono dell'altra radio va bene su questo, è identico. Ah, e va meglio o peggio? È uguale, non è che cambia tanto. Infatti l'ho scoperto perché avevo preso una prolunga a 6 pin, no? E ho provato, siccome anche questo microfono ha così gli stessi pin di collegamento, e ho detto vediamo se funziona, l'ho provata, ho controllato, corrispondevano, sì, mi cambia i canali con i pulsantini, funziona perfettamente, il microfono identico. Cappa, e vabbè, ma l'altro l'hai ritirato l'apparecchio? Sì signore, 10 euro la spesa. Figurati, guarda, è onestissimo, Sì, no, brava persona. Sì, Massimiliano mi diceva che non è che fa il camionista, lui fa tutt'altro, capito? Lui lavora molto con i camionisti, gli portano un sacco di radio da aggiustare. Ah, io ero convinto che fosse camionista. No, no, no, negativo, no, me l'ha confermato Massimiliano. Vabbè, comunque è molto onesto, è una persona che non ci marcia. Ci sono quelli che ci marciano, magari ti dicono che hanno cambiato una cosa e poi non l'hanno cambiata e ti fanno pagare una barca di soldi, invece lui è tranquillo. Gianni, ti posso dire che io gli ho portato la radio la sera, il giorno dopo, la sera dopo, sono passate 24 ore, mi ha mandato il video con la radio aggiustata, capito? Io sarei potuto tornare anche l'indomani ed era già pronta. Figura, veloce pure. E infatti gli ho detto, guarda, come trovo un attimo che ci passo me la ritiro, così ho fatto. No, no, persona onesta, senza ogni dubbio, è gentile, poi una persona, insomma, che sa il fatto suo, dai, se ti dice portamela che la metto a posto, così come aveva fatto con la tua poi, lui sapeva perfettamente qual era il difetto e qual era il problema. Ordinami, mi aveva detto i pezzi originali e la metto a posto, e così ha fatto, come glieli ho dati, tempo di 24 ore mi ha mandato il video che era aggiustata. Vabbè, bisogna anche essere bravi, non è questo, è anche, diciamo, c'è anche esperienza. Lo so, lui ci lavora parecchio con le radio da tanti anni, quindi quando le tocca sa dove mettere le mani, non è uno sprovveduto, insomma, uno che si è così improvvisato, no? Se le fa le cose vuol dire che le ha sempre fatte, c'ha l'esperienza da parte sua, se te la prende vuol dire che te la può aggiustare, se no non te la prende nemmeno. Albino era famoso anche tra i camionisti perché modificava gli Alan 48, gli apparecchi, li metteva l'eco, il bip, il secco, tutte queste cose qua, i 120 canali, li preparava lui. Lo so, c'è una bella stazione radio anche a casa sua, pensa che mi ha detto che ha parlato con Vittorio di Sassari poco tempo fa, e ho capito chi è Vittorio, radioamatore, penso. Vittorio Giove, sì. E ho detto sicuramente Vittorio l'hai sentito, perché magari stavo uscendo con tanti watt pure, e ho detto perché magari quello è un radioamatore, quindi sì, perché qua mi arrivava forte, c'era anche propagazione, però dice ci ha parlato lui da Borore. Kappa, ecco che esce, un attimino che sta uscendo Elena e vorrà prenderla. Oh Kappa, già c'è Marco, ci sei ancora Marcolino? Poi non avevo chiesto se Natalino era rientrato, se poteva parlare, anche il profeta, vediamo se sono all'ascolto ancora. No, vabbè, dai, tutti impegnati, d'altronde, meno male, in casa qualcosa da fare c'è sempre. Kappa, ascolta, con quale base te l'ha fatto quella di staccarsi e, insomma, rovesciarsi sul tetto? Quale base te l'ha fatto? Quella Midland, io ho una Midland e non mi ricordo la sigla, ce l'ho da parecchi anni, però già te lo faccio sapere se ci sentiamo domani. Poi tanto devo scendere perché mia moglie non è ancora rientrata e gli devo liberare il parcheggio, e se no rientra dall'ospedale e rimane in giro per la via a cercare. Quindi lei mi manda un messaggio: guarda che sono giù uscendo, mi sposto la macchina così vado in garage, mi prendo l'antenna, poi la scatolina me la lascio qua, quando ci risentiamo ti dico anche qual è, che tipo di, insomma, come si chiama la base magnetica. Mi ricordo che era 120 però, sì la stessa che ho avuto io naturalmente più di 110 non facevo, 110 di strumento, e usavo l'antenna sottile, come 360 ma era filiforme in acciaio, quindi fletteva e non faceva resistenza all'aria. Va bene, ok. Allora caro, se devi fare roba falla, dai, io adesso stacco e vediamo un po' se c'è qualcosa in TV interessante, se no mi scelgo una cosa mia. K. Black, per un saluto. Vai Marie. Ok, ciao Marco, ben sentito. Buonasera, ciao anche a Carlo, c'è anche a Gianni, ben sentito, 9:15, Radio 5, Gianni, da dove sei? Bene, avanti Carlo. Ciao Marino, buonasera, ben sentito. Ogni tanto ci si risente, lo da parecchio che non ti sentivo. Va bene che io col lavoro, gli impegni di famiglia, non è sempre che sto in radio. Adesso che sono un po' solo soletto qua a casa e quindi ne ho approfittato. E ok, anch'io sono un po' mezzo incasinato, diciamo. Là, io poc'anzi avevo ricevuto l'accesso, hai fatto il passaggio del controllo da 9:10 e aumenti a 9:15. Invece Marcolino arriva sempre a 9:15 qui a Ottava. Ultimo segnale. Bene, avanti Marco. Forse Marco è andato a fare un po' di pausa perché c'era da parecchio, mi ha detto che andava a vedere un po' di cose, si rilassava un po' la TV, Marino. Gianni penso che stia rientrando a casa, è andato a prendere la sua 50 e niente. Quindi eravamo ai titoli di coda, dai, perché abbiamo un pochettino tutti da fare. Comunque grazie che sei entrato a salutarci, ti rilancio, dai. Ciao Marino! E beh Gianni, sempre bello squillante, sempre bello, bello. Allora, di modulazione che c'hai, mi stai spaccando i timpani, il segnale è 9:15 qui a casa, è 9:15, sempre bello forte. Bene, io il mio è a sopra e un saluto, allora, ciao Gianni saluto la signora che c'è in macchina, ciao Carlo, ben sentito, domani se coincide, ciao anche a Marco, anch'io chiudo perché mi stavano già chiamando. Bene, buonasera a tutti, riprendi Carlo e per me quelli di, dai. Sì, ciao Marino, ci sentiamo alle prossime, in migliori condizioni, quando abbiamo più tempo, magari facciamo quattro chiacchiere in più. Vai Gianni per Marino. Ehi, dai, ciao Marino, ci sentiamo, dai. Io sto rientrando a casa, dai. Mi sono spostato adesso dall'incrocio della morte e sto rientrando. Speriamo che sia tutti. Poverino. Ti ascolto, poc'anzi quando mi fermo è 9:15, adesso stai arrivando 9:05, 9:10, figurati, e la radio si è messo per 5, beh, ti basta, va bene, sì. K, ti ascolto alla grande, vai. Sicuramente stai uscendo col K, perché la modulazione è quella. E il K, io la sono sempre il K, mi piace il K, non c'è nulla da fare, sono gli altri, ogni tanto le accendo, ma le lascio spegnere, sono acceso e basta, tanto per scaldare, questo è il migliore che c'è per il momento. Bene, dai, se vuoi ti faccio compagnia fino a Sassa, fino alla sua casa tua. Ok, vediamo se Carlo rimane, avanti Carlo. Sai che sono il più piccolo, sono io qua, nessuno mi sente a me. Guarda Luca, tu sei un Santiago di due e radio quasi è pio, eh. Lo so, perché sono pio. maledetto. Avanti già. Luca, stanotte non esci? Lucrezia non mi sente. Luca? Gianni, mi senti? Io ti sento, però tu non mi rispondi. Scusa, avevo un piccolo problema, mi sono spostato di canale, sei a posto, dai. Avevo uno Smith che stavano problemi. E io, guarda, sto parlando col microfono sul ginocchio, perché se c'è qualche posto di buco mi vede e mi ferma. Per cui non lo so se mi ascoltate bene. Benissimo già, benissimo, radio stereofonica, ma io non so se mi ascolti. Luca, non ti ascolto, Santiago 2 e Radio 0, scusa. Luca, mi ascolti, sì. Boh, torna problemi. È caduto dalla sedia, Luca. Carlo, avanti. Guarda adesso, Marino, come ti arrivo di segnale, se è aumentato qualcosa. Carlo, ti ho detto il segnale poc'anzi. Io poc'anzi ero in ascolto su ricevitore, 9.15, Carlè, 9.15. La radio è ottima, sempre bellissima. Ho capito, sì, perché praticamente qua posso aumentare dalla radio, capito. Adesso sto uscendo col minimo, capito, sono 2 watt, 2-3 watt, non di più. Guarda, con questa parte che mi sta arrivando, la 9.5 e la 9.10, la radio sembra assoluta, quando aumenti 9.15, cioè lo stesso segnale di Marco. Sì, Marco già arriva forte, perché lo sento anche sino ad Alghero, tranquillamente, sempre con un ottimo segnale, una radio forte, capito? Bene, ragazzi, io vi lascio perché anch'io ho un sacco di cose da fare, sono rientrato dal lavoro, mi sono giusto cambiato al volo, mi sono un po' rinfrescato e rifocillato, ma devo uscire, tra un po' rientra mia moglie e vado a liberargli il parcheggio, se no non trova niente. Ok, ciao Carlè, benissimo, a domani se coincide. Avanti Gianni. Ehi, dai, ciao Carlo, ci sentiamo, mi ha fatto piacere che ci siamo trattenuti stasera un po', eravamo un bel po', dai, già va bene. Avanti, ci sentiamo alle prossime, avanti Mari di nuovo. Ciao Carlo, ciao. Ecco, è già, 9 secco la radio, non lo dico neanche. Avanti Luca, Luca. Ciao Luca, ciao Marco. Ciao, ciao Carlo, ciao, buona serata. Luca che ha avuto la sedia, Marco avanti. Sì, Marì, 9.10, ma c'è il trucco, io lo sto lasciando un po' di più, vedi, se metto 4, così sono 4, vedi, e così sono 50, c'è il trucco. Già lo so, già, si sente lo scatto, lo scatto si sente, ci ha messo d'accordo, a 9.10, a 9, guarda, sei come Carlo, identico a Carlo, Marco lì. Sì, Carlo poi è in alto, è un bijou, tu devi vedere quanto è alta già la via rispetto a dove sono io, praticamente più scendi in via Luna e Sole più si infossa, diciamo, più conta l'altezza del palazzo e l'altezza del palo, e poi con l'antenna sua che è altissima, la sua, c'ha una, dovrebbe essere quella 7 ottavi o 3 quarti, non mi ricordo, comunque quella lunga mi. Già la conosco l'antenna di Carlo, già la conosco e l'ho anche vista, e quando passo con il tabacco mi vede il passaggio e mi vede lo sguardo di girarmi, capito? L'ho vista col camion direttamente, e la tua l'ho vista lo stesso, dunque il segnale è ottimo. Bene, vediamo Luca ancora sta mangiando, magari, avanti già, dove sei adesso? Gianni? Eia, ci sono, stavo guidando, là. Comunque ti ho ascoltato bene tutto il viaggio, non so se tu con questa antenna mi ascolti, ma penso di sì, perché questa è un'antenna performante. Già, sei come sei a casa mia, guarda, ti ascolto come sei a fianco a me, dunque c'è poco da dire, avanti Marco. Ehi, va bene, io mi stavo guardando la guida TV, vedere se c'era qualcosa di guardabile in televisione, dai, vi ascolto, sono qua. Poi vabbè, Luca non ha ripreso, Luca sì. C'è lo show del record stasera, guardatevi Gerry Scotti. Luca, Marco si sta truccando, devo uscire stanotte, tutto qua. Si sta truccando, sta vestendo, deve uscire. Avanti già. Ho detto c'è Gerry Scotti stanotte al televisore. Allora stanotte ce lo guardiamo, dai. In quale zona sei adesso con Gianni? Sono via Chiarini, Matteoli. Ah, è sempre 9.5, la radio è ottima. Poi vabbè. Sì, ho appurato che questa antenna, pur essendo fina, diciamo non è tanto alta, va bene. Ottima già, ottima. Guarda, tu mi dai ragione, forse ne abbiamo già parlato, dovresti avere la bobina trasparente, giusto? Dovrebbe essere la gemella e quella che c'era a Bacchisio. E quella che c'è la bobina trasparente, sì. E la gemella di Bacchisio, che dopo la puoi svitare e puoi attaccare l'antennino al PMR. Kappa. Sì, è praticamente è un'antenna polacca le bacchette, la svitava e attaccava l'antennino sempre simile, piccolino, per il PMR. Cappa, sì sì. Oggi io poi sto parlando col microfono sopra il ginocchio, perché se no se mi fermano magari mi trovo col microfono ma non mi blocca. Lo so, è come il cellulare già, è come il cellulare, dunque bisogna stare attenti, è un casotto. Bene, mi ha chiarito, dunque sei già al chilometro, dai, sei vicino al rifornitore, gira, dai. No, adesso l'ho passato, adesso sono già entrato a Sassari 2. E allora sei quasi arrivato, dai. Cappa. Andiamo, lei, andiamo. Marco, avanti, stai facendo cosa? No, già sono qua, stavo guardando tra i tuoi programmi, ma già, io non lo vedo Geriscotti, io vedo che sia Amici di Maria, Pucci, Medio Oriente, copiato. Magari sta guidando un po', è un tipo di spadone, Maria niente, neanche guarda, neanche io la guardo, neanche io, meglio nulla. No, infatti, tutte quelle cose o strappalacrime oppure roba trash che fanno in TV, mi piace più un film di un certo tipo oppure roba documentari, focus, quella roba lì, che parla, che ne so, di spazio, di tecnologia, di tutto. Però quella roba, anche il Grande Fratello, è bello solo vedere quando si fanno la doccia con le chiappone e basta, no? Per il resto è tutto da buttare. Buon gustaio, sì, maledetto. No, io mi guardo molto roba di spionaggio, roba russa, roba di guerra, diciamo, dai. Roba di spionaggio, tutta questa roba qua, che la notte le mettono e me le guardo. Ottimo. Mi piace. No, quella roba di Maria e compagni non mi piace, sempre sono delle cazzate, Giabidone e compagni. Gianni, ci è arrivato? Gianni non può rispondere direttamente. Avanti, Marco. Antonello, ti hai sentito dai, Marco? Grazie per avermi accompagnato, dai, ciao. Ok, ciao già, ben sentito, dai, domani se coincide mi saluti la signora, che c'è la signora e c'è Maxima. A domani, avanti Marco. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto e ci sentiamo quando capita. Ok, Marco lì, anch'io va, ti lascio perché mi sta chiamando mio nipote, forse è già arrivata, anzi è già arrivata, anzi la pizza fa la signora, mia moglie. Ok, mi stai chiamando da poc'anzi, io ho tardato. Ciao Marco lì, a domani se coincide, salutami la signora, tua madre, come sta? So che so com'è. Speriamo bene, dai. Ci sentiamo, saltoni, gli ascoltoni per me QRT, dai. Ciao Marco lì. Ciao Marino, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. Già due saluti a mamma, che poi già è argilla di umore, è più argilla di me certe volte, lo sai. Potrebbe anche entrare a parlare, a salutare ogni tanto. Però vabbè, non è gara, ciao. Magari. Tu pensa, io avevo quasi 9 anni quando ho utilizzato la 27, 9 anni, dunque ero piccolo e c'avevo un antennino buttato così sul tetto giù alla veloce, figurati. Ok, va bene, parliamo con calma. Ciao Marco lì, alle prossime, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. CQ canale 10, c'è qualcuno su 10? Attenzione canale 10, CQ10. Saluto. Ciao Marco, è me. È un sabato casalingo, è stato per me, ma vedo che già è entrata altra gente. Dalle 5 eravamo fino alle 8 al baracchino, un po' scherzando così, ma la serata è passata finalmente. E adesso mi sto attaccando alla TV, qua naturalmente rimane acceso per così, tanto per. Oh, c'è un po' di propaganda, lo sto guardando, anche in altre bande, c'è un sacco di roba, poi ci sono dei contest, qua in 27 ci sono americani, ho sentito un po' di roba. Vero, sì, già da presto c'era un bel abolotto, tra inglesi e americani, e poi sul 21 entra lo stesso modulare, quelli in FM, con un accento, con una parlata tipo araba, un bel po' di robetta, anche in 10 metri intanto ascoltavo qualcosa, ma senza impegno, stavo carellando. E adesso mi stavo guardando lo stesso la guida TV, è entrato un pochino di gente e così dai, poi tutti giustamente sono andati a mangiare. E quindi robe, poi già entra qualcuno, dai, un giappino, ogni tanto già, non sempre, ogni tanto ascolto, però almeno parlate di cose belle, solide, un po' interessanti, anche di tecnologia, quelle sono belle da ascoltare. E oggi di uscire poi non ne ho voglia, poi all'orizzonte non c'è niente, K. No, sono entrato 7-10, cioè non ci manco l'apprezzo io, ci hanno preso anche un po' di freschetto, se devo dirlo, dai. Perché oggi la giornata non era molto favorevole, c'era vento e le temperature c'erano pari 15 gradi stasera, però col vento la percezione del freddo è molto, molto maggiore, dai. E domani è prevista pioggia tutto il giorno, non forte, però con la pioggerina fastidiosa, per cui devo fare altre cose, domani lo stesso devo andare a trovare gente, per cui probabilmente anche domani prenderò un po' di freschetto. No, con Gavina è sempre interessante, abbiamo argomenti piacevoli, almeno per i miei gusti, cose interessanti, lui nel settore che a me piace tantissimo, come si chiama? Io Alta Fedeltà, lui PA, diciamo professionale, però abbiamo sempre cose da scambiarci come discorsi, dai. Qualcuno molte volte ascolta, può essere interessante, per qualche altro magari è una cosa noiosa, buon per loro o peggio per loro, come si suol dire, dai. Riprendi Marco. Io da quelle, a me piace sentirlo quello, quella roba che riguarda gli stereo, gli amplificatori, gli altoparlanti, però non posso mettere bocca perché io ho sempre avuto roba terra a terra, vabbè, cioè preferisco allora ascoltarlo in cuffie, però di stereo ho avuto sempre roba proprio, sai, il minimo indispensabile, quelle cose che facevano tutto, giradischi, doppia cassetta per duplicare le cassette, CD, però niente di professionale, ben lontano dall'essere professionale quella roba che ho usato io. K, ho sentito che hai chiamato anche a 525 poc'anzi, forse a quest'ora entri io, ma tu rientri a quest'ora a casa tipo? Normalmente se, ma c'è qualche apparecchio che ho ricevuto dopo inserito? È ricevitorino VU, sì, è il ponte quello lì, K. Oggi stavo usando un Alinco però di X10, è un volgare baracchino e non HF, e va discretamente bene in modulazione, K. Poi che altro da dire? Ah, quello deve essere il ponte di Fiume Santo, l'R2 Alfa dovrebbe essere 145 662.5, se è quello che si sente CW come indicativo del ponte. Ce l'ho a mezzo metro, si sentiva lo stesso, con volume anche moderato. Sì, no, ma ne metto anche al titolare del ponte, il responsabile ha detto, tu gli dà qualcosa lì, che è lunghissimo, dura 40 secondi, ti stai facendo una conversazione, è molto fastidioso, è preferibile magari in fonia dire l'indicativo di R2 alfa, la frequenza, ma perché è troppo lungo, restava mezz'ora, ma poi se tu ti trovi nel momento, per dire, c'è una pausa, non stai parlando, ti parte questo qui e ti copre e non riesci a entrare sino a quando non ha smesso, oppure se stai parlando con un altro e te lo senti sotto ed è un po' fastidioso se sei già dentro. Ah, è vero, sì, mi è capitato di sentirlo, che praticamente mentre modulavano loro entrava il CW e confondeva la comunicazione, ma anzi strano che non ci fosse un sistema di reset per cui per quando è occupato di non mandare il tono, dai, il CW, l'identificativo del ponte. No, glielo ho detto ad Antonio, infatti deve intervenire, dice quello in fonuia lo deve sistemare perché ha avuto dei problemi, questo qua gli ho detto tu, glielo ho detto tutto, tanto ormai diciamo CW pochissima gente diciamo lo identifica, solo appassionati, e poi non va certo sui ponti in CW, sicuramente utilizza la fonia. Ok, e cosa volevo dire, l'altro giorno proprio su quel ponte lì, l'altro giorno più di una volta, almeno 3-4 volte c'è questo tipo che si mette a parlare, adesso lo utilizza per parlare con la moglie o con la fidanzata, come ho schiacciato, ho dato l'identificativo e mi ha detto chi sei Margherita, io ho detto guarda di questo ponte radioamatoriale, e stava un po' zitto, allora dico dai nominativo se ti vuoi identificare, perché se no non puoi entrare. E poi un'altra volta ho fatto la prova senza dare nominativo, l'ho citato, tink il ponte, e lui subito chi sei Margherita, ha detto utilizza i toni e lo shift pure per un ponte, per cui non è neanche un'incompetenza. Eh sì, perché se fosse una trasmissione all'ingresso ponte, ma senza subtoni, invece quello di subtoni è anche lo scostamento di meno 600 se non è cambiato per accedere, quindi è troppo sporca, capito? È uno che si usa i ponti amatoriali per dire cosa butta la pasta, no? Non va. Allora, tanti anni fa, tempi addietro, amici, persone, quando ancora stiamo parlando di almeno ero ragazzino, ne ho 59, fai che ne abbia avuto 12-13 anni, conoscevo delle persone che ancora non esistevano i telefonini d'estate, quando si trasferivano al mare, zona tipo Tramariglio, forse così, utilizzavano le bande VHF, che erano ancora quadrati gli apparati, si metteva il quarzo, per dire che di andare a 144 o 145, lui lo metteva a 146, un pochettino fuori banda per non disturbare, e lo teneva acceso quando rientrava dal lavoro, la moglie sapeva all'ora di pranzo, e dice tutto a posto, per dire all'una, c'era un orario stabilito, e questo partiva quando era l'argentiera, lo stesso, questa persona, e si sentivano così, quando stava arrivando, dice guarda che sto per arrivare, oppure guarda che oggi è tardi, eccetera, c'erano degli orari prestabiliti, ma non disturbavano a nessuno, mica si mettevano a fare questo, ma questo, la cosa strana è che utilizza i tuni e il coso, e lo shift, cioè non stai andando con un boafeng che per dire ti sposti di frequenza, ti metti a parlare con un altro, qua stai utilizzando un ponte radiomatoriale che ti sentono nell'arco di centinaia di chilometri se c'è propagazione, perché quel ponte è molto aperto anche per l'Alta Italia, in Liguria, in Puglia, tutta quella zona lì, Genova ascoltano quando c'è un po' di propagazione, se no ti ascoltano, il nord di Sardegna lo copre benissimo quel ponte, per cui c'è la copertura di diversi operatori, diverse persone ti possono ascoltare, e quello ti metti a raccontare le tue cose personali. E via, poi dipende quanto sono personali, io vabbè, ti parlo degli anni inizi 90, io parlavo con la 25 che abitava nel palazzo di fronte al mio, ma usavamo delle radio a 49 MHz che avevano tipo 10 milliwatt di potenza, cioè a malapena ci sentivamo noi, e parlavamo di cose nostre personali, piuttosto personali, anche spinte, potremmo dire. Poi ho detto, se per caso qualcuno sta ascoltando, pazienza, lo lasciamo ascoltare. Lo sai che ce l'avevo anch'io con la fidanzata, ma stiamo parlando tanti anni fa, negli anni 88-89, ancora non c'erano i cellulari, per non telefonarci molte volte, utilizzavamo, abitavamo vicini lo stesso, e utilizzavamo quelli a 49 MHz, che venivano poi utilizzati molte volte quando facevi le regolazioni degli impianti d'antenna e cose del genere, una frequenza un po' particolare, cioè aveva una potenza limitata, faceva massimo 500 metri di distanza in campo aperto, per cui un po' di più, magari fai un chilometro, dai, noi eravamo abbastanza vicini, la notte molte volte ce l'attaccavamo, dico qui, fatti trovare dopo che la accompagnavi a casa e ti mettevi a parlare, ti facevi belle chiacchierate. Eia, erano in FM, allora io ho avuto, la marca era Maxon, sì, Maxon, quella americana, ho avuto sia con la cuffietta, con l'antennino, e sia il portatile, c'era il portatile sia con un canale e sia 5 canali, io ovviamente avevo preso quello 5 canali, c'era mi pare un cicalino di chiamata e l'antennino, no, un portatilino color grigio, ma caspita quanto era, poi mi si erano rotti, pazienza, vabbè, tanto era roba, anzi ti dirò di più, quelli erano dichiarati 900 metri di portata massima, io avevo provato con nonno all'epoca, buonanima, la portata ottica proprio privo di ostacoli, senza nemmeno un albero davanti, portata ottica, a me ho misurato col tachimetro della macchina, quello parziale, 400 metri, dopodiché il segnale lo perdevi. Sì, vabbè, dentro coso potevo, no, lì stessi c'era un canale, c'era il cicalino, la Maxa, lo sai che fine ha fatto quello che avevo visto? Che fine ha fatto? Lo conosci Antonello, quello che lavorava a Fusas? Sì. Siamo molto amici, all'epoca lui faceva gli impianti satellitari, impianti d'antenna eccetera eccetera, erano ancora, anche satellitari ancora no, erano analogici gli impianti, ma anche se non meno male che me li pulizzi, li ho prestati, li ho usati tante volte, poi me li ha restituiti, me li ripresi, alla fine li erano furati, non sapeva più come fare perché non ero riuscito a trovarli da nessuna parte, proprio della Maxon, erano grigi, il mio era un canale, c'era una specie di cicalino, una cosa di chiamata, ma funzionavano male perché erano un FM, una telefonata perfetti, e non sapeva come fare la filiatone, e vedo che ti dica, quando mi serve qualcosa, e non mi ricordo cosa mi aveva dato, forse un convertitore per una parabolica, e ho detto, robe non li ho trovati da nessuna parte, e dammi un convertitore, devo montare una parabola, mi aveva dato un convertitore, però mi è dispiaciuto tanto perché quelli erano, vabbè adesso sono giocattoli, ti metti a ridere, però all'epoca non ne trovavi di quelli, così silenziosi, non avevano le fusioni e niente, solo per andare in 27, era a 49 MHz, la frequenza di trasmissione mi pare che avrà avuto forse 500 mW, 200 mW, adesso non mi ricordo, erano dichiarate mi pare 500 metri, ma noi eravamo abbastanza vicini con la mia fidanzata e ci mettevamo a parlare la notte, ma per un sacco di tempo li abbiamo utilizzati. Ma ripeto, guarda, lei abitava di fronte ma abitava dalla parte di dietro del palazzo, fatto sta che con tutte quegli strati di pareti a malapena ci sentivamo, cioè doveva fare le acrobazie sia io che lei a trovare la posizione giusta nella camera come il cellulare per riuscire a sentirci. Mi ricordo anche che dopo un misticcio mi aveva tirato a schiena la batteria da 9 volt di quello con la cuffia all'antennino, mi aveva tirato a schiena. Sì, infatti c'era una batteria 9 volte, le cambiavo molto spesso, ma chiacchierate la notte sino a tardi, perché poi la pompa presa a casa dei genitori non volevano trattenersi troppo, allora con questa roba qui stavamo tutta la notte sino a tardi parlando, no, io non ne avevo problemi di copertura, funzionavano benissimo, anche in camera da letto quando l'ho coricato la notte e lì in camera sua ci sentivamo benissimo, il problema magari ti poteva ascoltare qualcuno, però era una frequenza poco operativa, poco usata, per cui non credo che qualcuno ci abbia ascoltato, almeno lo spero. Sì, e anche se hanno ascoltato, sì, capirai. Certo che lì dovevi essere con quei pochi milliwatt nell'arco di 100 metri, secondo me, a quelle frequenze, poi da dentro casa. Ma con nonno noi le avevamo portate però non dentro la macchina, cioè io ero fuori che mi allontanavo e lui era fuori dalla macchina, quindi tutti e due in piedi, deviso, no? Ci vedevamo proprio. E mi ricordo dopo 400 metri, cioè come abbiamo perso il segnale, nonno si è avvicinato alla macchina, ha controllato il parziale, grosso modo 400 metri e poi non andavano oltre. Comunque è vero, all'epoca, adesso parlando fine anni 80, non c'erano né PMR né l'EPD, cioè l'alternativa ai baracchini era solo quella, e se chi li vendeva, che ricordi, era quel famoso Adriano che vendeva. Guarda, era prima di Marco Michi, non so se Marco Michi l'ha mai sentito o conosciuto lì in Via Lomberto, a una certa altezza. Prima c'era questo Adriano, vedeva baracchini e tutta la roba elettronica. Assolutamente, Adriano Cao, Via Lomberto all'inizio, a Puglia, conosciuto di persona, grandissimo tecnico di una preparazione assurda, veramente bravo, quello l'avevano premiato anche su riviste specializzate, il primo premio aveva preso per dover costruire un oggetto, non so, ti davano due o tre componenti e per costruire un circuito elettronico a dare una funzione, più povero lo facevi, più semplice lo facevi e ti davano il premio. Lui aveva usato un pacchetto di fiammiferi come contenitore, lì aveva fatto i componenti, li aveva messi lì, aveva inventato un circuito, aveva premiato Adriano Cao, veramente grandissimo tecnico. Caspita, ti sto parlando proprio dell'84, noi abbiamo comprato lì la prima antenna per la 27, che era una Sigma GPVR, classica antenna, un quarto d'onda, tre radiali in fibra, full size, un quarto d'onda full size, e si è aperto un mondo, per quanto fosse bassa, K. E mi ricordo tante altre cose, avevamo preso il Viking 2, avevamo preso l'ultimo dei 3 all'epoca, che non costavano poco, mi ricordo. Tanto pagavo a mamma, io ero 13enne, cioè non è che potessi fare spese per conto mio. Guarda, di quegli apparatini mi è rimasta solo la scatola e mi pare di ricordare, anzi sì, sono sicuro, allora il Maxon, allora quello monocanale aveva la batteria da 9, quell'altro con il selettore di canali aveva quattro stilo. No, quello che avevo io era quello grigio con l'antenna telescopica, si era stata 30 cm allungabile, una cagatina proprio a livello di walkie talkie, l'unica cosa di buono era fuori frequenza, non era il classico banda 11 metri, era 49 MHz ed era molto fedele come prestazione, poi lo metteva, c'aveva il coso che poi quando si scaricava le batterie, insomma c'era un indicatore, iniziava a fare un rumore strano, dove cambiava la batteria. Sì, ma guarda, un LED c'era, forse faceva sia da TX sia da Battery Alert, no, roba del genere. Mi pare sia TX Mat, TX Battery. Sì, quello c'aveva il volume che ricordi era laterale, poi frontalmente avevi il selettore a 5 canali e lo squelch manuale, non era automatico, come il modello a cuffie. Sì, ti dirò che li ho pianti, uno me lo ricordo come si è rotto. Uno si è rotto perché si è rotto il dentino che teneva le batterie e lì ha voglia di tentare di incollare, di mettere cosa, un altro, niente da fare. No, io avevo quello monocanale, però ti ripeto era molto fedele, nel limite delle distanze naturalmente, però nel limite di utilizzo 200-300 metri, funzionava. Una meraviglia, non aveva fruscio, al contrario, se fosse stato un M avrebbe avuto un sacco di interferenze, dico, questo era o prendevi o non prendevi, però dove lui era abbastanza vicino e non ha avuto mai problemi di niente. L'interruttore di accensore era un coso rotativo che faceva da volume e l'accensione, mi ricordo. Laterale, giusto? Laterale, della Maxon grigio, con antenna telescopica, sarà stata 30 cm, non penso di più, fine fine, era leggerissimo poi, era piccolino. Poi come cosa era, come ti posso dire, un po' più di un telecomando di dimensioni, no vabbè, di certi telecomandi no, di un telecomando semplice, quelli piccoli, due telecomandi sovrapposti, dai, quelli piccoli. Sì, sì, sì, è lui, guarda la forma uguale, il colore uguale, la descrizione, tutto quanto uguale, non so nemmeno se fossero omologati, perché era roba americana, e vabbè, la potenza era quasi da radiogiocattolo, ma non so se fossero omologati, la verità, non mi mettevo il problema perché la portata era talmente ridicola che vabbè sarebbe stato il colmo, e poi non c'erano le cose CE, adesso il bollino CE, tutte le menate che stanno tirando fuori. K. Sì, mi è rimasta la scatola, peccato. Adesso magari sarebbe un oggetto cult, per quanto inservibile magari, dopo 30 anni non funzionerebbe nemmeno più. No, adesso sarebbe ridicolo perché lo puoi usare come si chiama, baby packing per i bambini, lo metti in camera, lo lasci acceso, quando sei in cucina magari in una famiglia che vuole che lo sta dormendo il bambino, per sentire se si sveglia, lo tieni acceso con il coso e vai, tipo come fanno quei coso per i bambini. Io c'era un periodo anni fa, sentivo questa famiglia, non lo so, tutte le cose familiari, lo lasciavano acceso, si sentiva tutto, non so da dove parlava questo baby parking, ogni tanto si sentiva il bambino che piangeva, poi bisticci qualche volta, no? Raramente, però qualche volta si sentiva anche i bisticci, vai, piglialo tu a voci, guarda che pro, si sentiva tutto quello che dicevano in quella famiglia, e dicevo, ma è possibile che questi, ma proprio chiaro, una cosa impressionante, per diverso tempo, non dico un anno, ma quasi, poi si era spento per un po', poi l'avevano riacceso, era sempre in funzione, almeno quando lo accendevo io la notte era sempre acceso, la notte, la sera, dai, non dico di notte, questi lo tenevano sempre acceso, per cui tu sentivi tutte le conversazioni familiari. E poi un'altra volta mi è capitato un'altra, però quello era in LPD o PMR, adesso mi ricordo, un giorno accendo e sento questi parlare, lo stesso una famiglia, che poi discutendo, la conoscevo pure questa persona, questa ragazza, siamo stati un po' anche parlando, si è poi intromesso qualcuno, e poi facendo il conversazione, ma dove stai, chi sei, cavolo, era una persona, una figura, voi, ne avevo la faccia entrare perché la conoscevo benissimo, sposata, con figli, eravamo io insieme, non mi ricordo a chi, stavamo facendo anche mezzo battutine, cose così, ma a livello malizio, cavolo, quando mi ha detto chi era, ho detto scusa, dai, stavamo scherzando, dai. Mi ricordo che con gli apparatini, con questi Maxon, siccome avevano vari canali, ogni tanto trovavi magari la corrispondenza di quei telefoni cordless che facevano tipo 4649 o 4970, e quindi sentivi un po' le telefonate di questo e di quello, quando capitava. E a me è capitata una cosa stile baby monitor, però è presente il video sender, quelli praticamente che ti mandavano l'immagine e l'audio da una camera all'altra, no? Se non potevi spostare tutto il TV o quello che era, no? O portare l'antenna in una camera, il video sender, c'erano varie frequenze, no? Per trovare la frequenza libera, una volta c'era questo pseudo baby monitor sui 2 giga e 4, 2 giga e 5, no? La frequenza era quella, e si voleva bazzicare per la casa la moglie di questo lingerie, io ho detto perfetto, benissimo. Ah, addirittura ce l'ho ancora della Philips, lo stesso grigio, l'ho usato tante volte quando allora le volevo portare la televisione da una stanza all'altra, ma adesso li metti a ridere per queste cose, non c'è problema. Ma prima l'ho usato spesso quando portavo la camera di mia figlia, perché loro non c'era il cavo TV, la rimettevo un monitor, gli attaccavo questo. Lo facevo anche come, c'era ancora un sistema di videosorveglianza, sempre utilizzando lo stesso sistema, ti collega un televisore, ti trasmette, c'è una telecameria con l'antenna, c'è una banda, diciamo c'ha portate limitatissime all'interno di un appartamento, lo puoi usare, vedi, ti metto una telecamera in cucina e vuoi vedere, o viceversa, la camera delle figlie, gli metti questa telecamerina in un mobile, cosa del genere, e poi il monitor c'è in cucina e ti vedi cosa stanno facendo. Normalmente si usa per i bambini piccoli, anche qualcuno magari lo usa per altri scopi, videosorveglianza e cose del genere, però ce l'ha ancora conservato. Non ero tutto appassionato di tutte queste cose. Questa la Philips ce l'ha ancora funzionante, anche se ti ripeto, sono cose lì. E tu addirittura sei riuscito a sentire gente sulla stessa frequenza. Ah, dei telefoni, vabbè, quello sì, no, ma questo del video, cosa appunto, videosorveglianza per la camera del pupo, no? E vedevi così, che adesso a una certa ora, quando non c'erano loro, vedevi la donna, come dire, la collaboratrice domestica, però che era una donna in servizio, puliva frugando i cassetti, però poi il più bello era la moglie di lui, in lingerie, in estate, quando c'era caldo. Cioè, buono, quello mi è capitato tante volte quando c'erano al mare gli etax, i cellulari etax, stavamo tutti in compagnia, c'era un amico, c'era lo scanner, ci facevano certe risate, telefonate, perché era, dicevano, erano criptati, erano ancora in analogico, non è come adesso col sistema di GSM eccetera eccetera, 4G, 5G è tutto un altro sistema, però prima era una zona vicino dove c'era appunto il ripetitore, dove stava uno al mare, questo portava uno scanner, c'aveva della Icomo, della Chemo, non mi ricordo, ci ascoltavamo la notte tutte le telefonate, le risate, ma poi prendevamo telefonate di tutti i turisti, perché lì è pieno di turisti, tutti napoletani, siciliani, milanesi, di tutto di più, ce la facevamo, ma c'erano certi, erano ridicoli, nel senso loro non lo sapevano, noi li ascoltavamo. Bei tempi, adesso vabbè, tutto digitale, tutto, che ne so, DECT per quanto riguarda i cordless, sempre tutto digitale, anche i baby monitor, sia audio che video, per fortuna, tutto digitale cifrato, diciamo. Vabbè, per gli ascoltori è un peccato, ma insomma, è anche giusto. Perché la gente non si rende conto che si metteva in camera, tipo queste videocamere, wifi, wireless, come si dice, già hai capito, quella 2.4, 2.5 giga, per dire, e mandi immagini di famiglia di cavolacci tuoi in tutto il circondario, perché magari uno lo stesso si sta sintonizzando il proprio video sender, no, da una camera all'altra, e vede immagini che non dovrebbe vedere, eccetera. Poi per le telefonate tax, non te ne dico, lo stesso, certe volte anche cose drammatiche sentivi, per carità, certe cose divertenti, certe molto meno divertenti. No, io ho sentito una, questa era un po' lettane, ma le risate, lei era molto sboccata, parolacce, prendeva a voce, non so con chi era, ma una cosa, noi ridendo, un piscio, sembrava quando ti ascolti qualche programma di quelli comici, uguale, però eravamo in diretta. Però l'altra volta una cosa curiosa mi è capitato, quando facevamo, mi ricordo stavamo facendo una preparazione di un torneo che organizzavo io, diciamo, il nostro gruppo, cioè avevamo i radiomicrofoni, non mi ricordo se quelli lavoravano a 860 o a 960, dai, frequenze un po' in alto, il radiomicrofono, c'è la centralina e poi c'è il microfono senza filo, questo non era di grandissima qualità e sentivamo, addirittura si sentiva il trasferimento di una radio privata, molto molto importante, non diciamo il nome, che lavorava da, diciamo, da noi in linea ottica, sarà stata 10 km, no vabbè 10 sì, no, forse sì, una decina, come no, da Monte Alvaro, noi eravamo a Ripunti, ed entrava dentro il radiomicrofono e diceva, ma cos'è questa musica, cos'è questa musica, poi alla fine pensando ed era il trasferimento, perché il trasferimento dalla stazione, diciamo dagli studi al punto ripetitore era in alta frequenza, non era in coso, 8808, perché adesso vabbè sono tutti microonde, satelliti eccetera eccetera, ma loro lo facevano a 800 o 900 MHz. MHz e sentivamo l'audio che entrava sul microfono. Noi non riuscivamo a capire, ma questa musica sembrava tipo cosa degli spiriti, casa degli spiriti, ma cos'è chi fa gol? E sentivamo questo detto, e alla fine abbiamo capito che era quella radio lì, era la frequenza di trasferimento del, che entrava dentro il radiomicrofono, ma a chilometri, a 10 km me lo sentivamo. Mi ha ricordato un episodio, quando si parlava al baracchino, c'era Gianni di Lunesole, no? Che abita a un passo da te, a un passo dall'officina credo anche, no? E dice, ma io sento queste comunicazioni, dice, del circolo, e non ho capito, ma quale circolo? Praticamente lui sentiva, siccome c'era in quella piazzale, presumo di Piazzale Segni, il circo, stava usando dei radiomicrofoni, non so su quale frequenza, e lui le sentiva chiaro chiaro perché era a un tiro di sputo lì, e lui diceva circolo, e non riuscivano a capire, e lui intendeva il circo, capito? E poi, che so, credo che tuttora, me l'aveva detto Gianfranco, un redattore, che in questi paesi, forse Osilo, Florina, se non so quali siano esattamente, fanno ancora la messa via radio, cioè gli anziani hanno un piccolo ricevitore intorno, credo, ai 40 MHz, e praticamente il prete trasmette la messa, così le fedili la possono sentire in diretta a casa loro. Ha detto, lì ci vuole una bella cosa goliardica, mettersi sui 40 MHz lì in zona paese, mettere un po' di watt, sovramodulare il segnale che non sarà fortissimo, e bestemmione in diretta, così vedi le vecchie che corrono a confessarsi. No, è vero, verissimo. In diversi paesi, quando ci sono persone anziane, adesso non mi ricordo la frequenza, però la maggior parte sono autorizzate, hanno frequenze, diciamo, dedicate per uso civile, diciamo. Adesso non mi ricordo se sono 49-50, frequenze anche che qualcuno può anche ascoltare, nel senso non sono frequenze particolari, diciamo, di cose militari o cose aeronautiche, eccetera, eccetera. E diranno, una radio di casa mia, prendete una radio con le multibanda, una semplice radiolina, trasmetto con potenze limitate, hanno una copertura di 500 metri, tanto sono paesi tutti piccolini, molte volte poi nell'arco della piazzetta e utilizzano quello. Ma quello del radiomicrofono, lui dice, ma non è possibile, ma cosa sta succedendo? Non riuscivamo a capire la logica, siccome poi io sono sempre stato appassionato di radioascolto, alla fine dice, ma questa è radio, allora ci siamo dovuti spostare di frequenza noi, perché non ci faceva parlare a noi, talmente era forte il segnale, quelli trasmettevano da Porto Torres a Monte Alvaro. No? E la Montevallo c'era il ripetitore e coprivano tutto il nord Sardegna, vabbè, potenza, c'era potenza alta in 8808, però la Porto Torres arrivare ai punti a disturbare il radiomicrofono che c'ha due antennine cagate, cazzo, ho detto, ma come possibile? Eppure è successo, e lavoravano mi pare 800 MHz o 900, adesso mi ricordo. Tu se volevi fare il cattivo, adesso la RAI lavorava tutto con satellite eccetera eccetera, ma sino agli anni 2000 i ponti ripetitori della RAI lavoravano in banda, per dire Monte Oro arrivava il segnale da Roma all'Imbara, e dall'Imbara lo trasmettevano a tutti i ponti, quello di Cagliari principale e Monte Oro a Sassari. Dal 99-3, per dire RAI Radio 3 andava in banda a Monte Oro, c'è un'antenna, e lo ritrasmetteva 94-500, così tutti i RAI 1, RAI 2, RAI 3. E il 99-3, infatti tutte le radio private si spostavano da quelle frequenze, perché se appena disturbavi interrompevi la comunicazione. Se uno voleva fare il cattivo si metteva 99-300 e tu mandavi una musica a 99-300 con un piccolo trasmettitorino ridicolo, ti mettevi sotto Monte Oro e automaticamente il ponte della RAI di coso, che non aveva nessun blocco di niente, non è come adesso, è tutto codificato digitale eccetera, e tu con un piccolo apparecchietto dal niente ti mettevi sotto Monte Oro, nelle vicinanze di Monte Oro, anche con pochi milliwatt, ed entravi sul trasferimento della RAI, e la RAI da 94-500 ti rimandava quello che ha mandato tu, se uno vuole. Gli facevano queste cose in continente quando c'erano i sovversivi, quando facevano quella di Venezia, come si chiama, avevano fatto un sacco di macello, il Trentino, quei paesi che volevano chiedere autonomia e cose del genere, e addirittura entravano anche nei canali della frequenza audio della TV, perché c'erano, allora era tutto in banda a trasferimenti. Adesso è molto più complicato, non è semplice, però prima era una cosa di una semplicità unica, solo se lo facevi assolutamente, vabbè, se uno si voleva non far trovare già ci riusciva, però si poteva fare in un modo semplicissimo. Aspetta che fra un po', adesso vabbè, fra poco stacco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, avanti, ma ancora niente. Allora vabbè, una volta, è presente, vabbè, quelle sono cose che si pensano ma non si fanno, è presente Ocean? Quando ho aperto, no? Vedevi questa schiera di televisori in vendita, tutti sintonizzati per esempio su Rai 1, naturalmente analogico, e ci siamo? Ciao. Ebbene. Mimì Gianfranco, mi. Gianfranco. Ma che ne fa? Vero? Io sono dappertutto. Quando mi avevi raccontato di queste radio dei paesi, no, che ti trasmettono una messa in diretta, ha detto lì ci voleva un apparecchio lì, che un passaggetto che chiudesse la portante, cioè sovramoduli, bestemmiano in diretta e vedi le vecchie ancora a confessarsi. Vabbè, dove volevo arrivare? Allora, da Ocean c'erano queste, vabbè, i televisori in vendita, analogico, tutti sintonizzati su Rai 1. Io all'epoca avevo un video sender, sempre per trasmettere una camera all'altra, che era addirittura in VHF, potevi regolare la frequenza, era una cosa proprio arcaica con tanto di antennino. Lì c'era da mettere, parcheggiare la macchina davanti all'antenna di Ocean. E accenderlo lì dalla macchina, potevi mettere una videocamera che avevo con le cassette grandi, ti sintonizzavi sulla frequenza uguale, forse riuscivi a passare il segnale e mandavi pornasso in diretta su tutti i televisori di Ocean. Immaginati il panico. Aspetta, scusa Gaffa, adesso ti racconto un episodio vero però. Vai. Allora, non so se l'avete mai conosciuti, quegli orologi, l'aveva fatti la Casio, che aveva la possibilità di memorizzare, aveva la calcolatrice e potevi memorizzare il telecomando. Tu ti avvicinavi a un televisore, schiacciavi il tasto di apprendimento, cioè un tasto come fanno per i telecomandi universali, lui riceve la frequenza di trasmissione del coso, del televisore, automaticamente diventi un telecomando il cellulare. Lui si avvicinava al televisore di Ocean, di Media o di quello che c'era, no, Media non c'era ancora, c'era Città Mercato, non la chiamavamo, dai. Andava di lì, memorizzava il coso del televisore, beh, andava e li cambiava il canale, faceva impazzire i tipi della cosa, questo amico mio faceva troppo ridere, ma era una cosa, quelli non riuscivano a capire, ma come si cambiava il canale, e quello davanti non faceva finta niente, tac, toccava l'orologio e gli spostava i canali, girava così, cose senza motivo, e quelli gli diceva, ma cosa sta succedendo, poi si allontanava, quello gli rimetteva il canale giusto, lui si andava, tac, e glielo spostava. Vai Gianfra. I famosi scherzi da prete. Sì, Robè, allora c'era un amico Bontempone che me lo faceva a casa quello, però siccome io conoscevo l'orologio Casio che piaceva anche a me con la telecomando universale, dai, credo appunto che come che registrasse il tipo di infrarosso e quello di trasmissione, mi cambiava i canali in camera, detto, e gli dicevo, Lino, bello quell'orologio Casio col telecomando, e piace anche a me, l'ho riconosciuto perché era lo stesso che piaceva a me, ia. E c'era una cosa che tiene a fare adesso qua, siccome i muri hanno orecchie, non posso citare un altro episodio, ma sì, ha funzionato. Ma io non so con cosa lo faccio, io ce l'ho cellulare, c'è un'applicazione che ti memorizza tutti i telecomandi, addirittura anche senza avvicinarti, basta scrivere il codice, nel televisore ti dà, c'è una banca dati di migliaia di codici, l'ho fatto per il Samsung di casa, scrivo il coso, vado col telecomando, tac, e cambio il canale, cioè mi appare un telecomando nel telefonino e ci sono tutte le funzionalità, il volume, la bassa, e fai tutto quanto. Vabbè, cose poi magari che le cose teoriche, non dico di mandare un pornazzo, ma un monoscopio, come si chiama, con l'immagine statica, qualche messaggio politico, che ne so, avrei voluto vedere le facce presi dal panico. Ma Gianfra, perché quello che dicevo io, adesso mi è venuto il nome, la Serenissima, quando avevano fatto quella specie di blindato di carro armato, volevano fare la rivoluzione, dove così Gianfra? Sì. Aspetta che c'ho una marea di stazionarie. Com'era? Come funzionava? Oh, era tanto, non sentiva Gianfranco qua in 27, ma siccoli me. Vuol dire qualcuno ci ascolta, dai. Vai Marco. No, non c'ho l'antenna. Aspetta. 27 sovramodulato. Ho detto già a Franco, da sicuri che non ti sentivo qua in 27. Vuol dire che la conversazione era ascoltata, dai. Eravamo io e Marco, pensavamo di essere da soli, invece qualcuno ha ascoltato. Vai Marco, ripreso. Sì, ma sono convinto che magari chi, ma anche chi non entra mai, che proprio non ce l'ha magari da secoli il baracchino, non entra mai, magari ha un po' di ascolto, lo fa. E d'altronde piuttosto che guardare la TV sempre, cioè è bello ascoltare così. Ha preso il filo del discorso adesso. Già fra, hai detto ai stazionari, ma puoi accordare? Occhio che l'amico vi ascolta. Come l'altarino, mi? Adesso non escono tutti gli altarini, va bene, Romiano, tipo quando, quando piove escono le lumache, adesso bene, Romiano ne salgono tutti. E questo chi è? Guarda, secondo me ci sono non meno di 10, se non 20 persone ascoltando. No. Lo sentite questo? Sì, ma per caso l'accordatore quando tenta di accordare in vano? A me sta dicendo. No, perché io ho sentito accordare certi K, per esempio, e fanno come degli scattini, tipo così, quando tentano di accordare un'antenna. Sì, sì, il 440 è meccanico, il 940 è meccanico, fa un rumore tipo di un motorino, infatti c'è un motorino che c'è un variabile e ti regola l'impedenza del coso, la linea quella dell'antenna disaccordata. No, ma questo trapaccio adesso era...